Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Lunedì 7 ottobre, buongiorno a tutti per questa giornata che è davvero autunnale, ma noi per rischiarare la nebbia ascoltiamoci Radio Bullet. It is the first time that we have a European President of the European Commission and this gives big hopes. E un ben trovato, un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Bullets. Oggi avremo una piccola variante del notiziario di genere. Andremo a Helsinki, Finlandia, dove lo scorso lunedì e martedì si sono tenuti due eventi collegati: la conferenza organizzata dalla presidenza semestrale europea finlandese sull'uguaglianza di genere, con molte delle più importanti organizzazioni internazionali che si occupano di diritti delle donne, e il secondo è l'incontro tematico tra giornaliste e giornalisti che l'Istituto Europeo per la parità di genere, EIGE, ente dell'Unione Europea, organizza ogni sei mesi per ragionare con chi lavora nel settore dei media a che punto siamo in Europa per una vera parità. Quella che avete sentito all'inizio è Virginia Langebach, presidente uscente dell'EIGE, che ha presentato un report sull'avanzamento della piattaforma di Pechino, una piattaforma di azione in vari campi che riguardano il superamento del gap di genere adottata dalle Nazioni Unite nel 1995. Il report presentato ad Helsinki fotografa gli ultimi 5 anni di progressi nei paesi dell'Unione e, nonostante abbiamo 2 donne ai posti più alti dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione, e Christine Lagarde, a capo della Banca Centrale Europea, non è cambiato granché. Ancora Virginia Langebach. It was not a surprise, but it's a sad confirmation. Quello che mi colpisce di più, anche se non è una sorpresa, è che i campi più tipicamente legati alla differenza di genere sono fermi a dove li avevamo lasciati. Ancora oggi, per almeno 13 ore alla settimana, le donne lavorano in famiglia, non pagate. Questo ci dice che non solo non c'è stato un gran progresso in termini di educazione, di lotta agli stereotipi, ma anche che i fattori esterni alla famiglia, i servizi, dai trasporti agli asili nido, non sono migliorati a scapito delle donne, per cui abbiamo 7 milioni e 700 mila donne fuori dal mercato del lavoro in Europa per lavorare a casa gratis, quando gli uomini fuori dal mercato sono solo 500 mila. Ed oggi in Europa ci sono anche nuove emergenze, come quello delle donne migranti e rifugiate. Lo racconta il ricercatore dell'EIGE, Jakob Kiles. So first looking at migrant women within European economies already. Partiamo dalle donne migranti già presenti nel nostro tessuto socio-economico. Una delle sfide è la povertà. Una su due è a rischio di povertà e esclusione sociale. Devono affrontare spesso la disoccupazione. E se lavorano, lo fanno soprattutto illegalmente e in modo precario. Ci sono poi anche gruppi più vulnerabili, come le donne e le bambine richiedenti asilo. Nei centri per migranti, anche se dipende da paese a paese, non c'è un'attenzione di genere specifica. Inoltre, le richiedenti asilo sono a forte rischio di violenza sessuale, prima nei loro paesi di origine, durante il viaggio, nei centri collettivi per migranti, ma anche una volta arrivati in Europa. So this often happens already in the country of origin, but also in reception facilities and also later on within European countries. E poi nel report ci sono anche altri dati che riguardano la nostra epoca digitale. Ad esempio, non ci sono donne nel mondo del lavoro ad alto impatto tecnologico e scientifico. In pratica, il futuro. Secondo il report presentato ad Helsinki, siamo da anni ferme all'11 e 12% di donne che studiano e lavorano nei campi di matematica, fisica, informatica, ingegneria e scienze. E anche quando le donne arrivano in politica, cosa che per fortuna quella sì è migliorata molto, come dimostra anche il nuovo Parlamento europeo per la prima volta al 40% composto da donne, comunque le donne restano obiettivi di attacchi online e pubblici. Secondo lo studio di EG, l'80% delle parlamentari europee ha subito violenza psicologica prevalentemente online. E lo stesso succede a giornaliste, attiviste e figure di spicco, cosa che per le giovani vuol dire stare sui social senza esprimere un'opinione. Il 51% delle ragazze tra i 15 e i 19 anni afferma che non posta niente che rifletta la propria opinione, proprio per paura di essere attaccate. Una bella autocensura che colpisce solo le femmine. E una cosa mi ha personalmente colpito nell'intervista a Virginia Langbach. E quando, parlando del gap scientifico, ha detto che il primo ostacolo è la famiglia, che dice è la prima a convincere la bambina che ci sono cose che si possono e non si possono fare in quanto femmine, e una di quelle è la tecnologia e la scienza. Come si fa a cambiare, mi sono chiesta, queste cose che vengono inculcate così profondamente fin da piccole? Ecco come risponde Virginia Langbach. First of all, the role models. Prima di tutto, grazie a nuovi modelli femminili. Sarà molto interessante vedere come la prima donna presidente della Commissione europea influenzerà le giovani e le rafforzerà nella fiducia in se stesse. Allo stesso modo è importante l'ampia presenza di parlamentari donne a Strasburgo, per la prima volta arrivate al 40%, e delle commissarie che dovrebbero essere numerose. Sono modelli di donne che prendono la parola, prendono decisioni, che influiscono sulla vita di tutti. L'altro fattore fondamentale è l'informazione sui diritti e sulle opportunità. Un esempio tipico è quello della violenza, dove le donne che la subiscono sono portate a credere di essere colpevoli, pensano di averla provocata. Evidentemente c'è una forte mancanza di informazione su che cosa è la violenza e su cosa è giusto e cosa è sbagliato in una relazione. In questo caso i media sono molto importanti. Awareness raising most probably as well on some of the aspects that is not right, and here media is very important. E su questo noi di Radio Bullets siamo molto d'accordo. Un saluto dalla vostra Cecilia Ferrara. Where you going to? quella di ieri visto al Dall'Ara è stata una gran bella partita che da tempo non si vedeva nel campionato italiano. Due squadre che, come si dice in gergo, se ne sono date, sono suonate, ma alla fine gli episodi hanno probabilmente deciso la partita. Questa volta gli episodi sono stati favorevoli a Bologna, perché è Correa che sbaglia il rigore portandolo la palla sulla traversa. Bologna che è andato per due volte in vantaggio nel primo tempo, prima con un bel gol di testa di Crazy, che era, dopo neanche minuti, stato subito raggiunto il Bologna dal gol di Immobile, e qui probabilmente Scrupsi ha qualche colpo in più. Poi Bologna aveva continuato comunque a giocare, un Bologna che non aveva Soriano, ha fatto debuttare nella stagione Svanberg, a mio avviso una buona prova quella dello svedese, che ha dato ritmo, ha dato continuità, è stato anche abbastanza sfrontato in attacco, una buona prova la sua, e questo testimone che, insomma, dalla panchina può venire anche qualcosa di buono. Un Orsolini che all'inizio non bene, poi lo spunto per il primo gol. Il raddoppio arriva con finalmente il gol al Dall'Ara di Palacio, ma anche qua dopo poco Immobile pareggia. 2-2 alla fine del primo tempo, ma diciamo una bella partita con due squadre che si aggrediscono, e anche nel secondo tempo il ritmo non cala e il Bologna prova a vincerla. Ci sono due espulsioni per il quindicesimo del secondo tempo, Lucas Leiva per una doppia munizione, e poi come ultimo uomo Medel dopo anche 10 minuti con un Leiva lanciato in contropiede. Diciamo un punto a mio avviso molto molto importante, perché sono convinto che giocando i risultati arriveranno. Questa squadra non demorde mai, da sottolineare, tornato in panchina Sinisa Mihajlovic, acclamato dal pubblico. In mattinata c'era stata la camminata verso San Luca. Diciamo un buon Bologna che non demorde, che prova sempre a vincerla. I cambi alla fine di Santander e Scovolsen che probabilmente ha avuto anche la palla sul due pari verso la fine per di testa, ma il suo impatto col pallone non è stato dei più precisi. Ha esordito in campionato anche Schoten, una prova da rivedere, ma però insomma diciamo grande determinazione, grande voglia. Vediamo, adesso c'è la pausa per la nazionale, poi si tornerà in campo a Torino contro la Juventus, che ieri sera ha espugnato San Siro, quindi partita sicuramente difficile. Probabilmente bisognerà iniziare a fare una riflessione sul portiere, che forse non è tra i pali sempre molto attento. Magari un turno di riposo potrebbe anche non essere negativo per lui. Però prendiamo quello che c'è di positivo, ovvero la prestazione, e considerando a mio avviso la Lazio una squadra più attrezzata del Bologna, sicuramente risultato positivo. Certo, non muove più di tanto la classifica, ma gioco lungo, queste sono situazioni che verranno comode in una stagione molto lunga, dove a mio avviso è sempre meglio muovere la classifica. Chi non muove la classifica è la Fortitudo, che torna a casa dalla trasferta di Varese perdendo 83-60, ovvero schiaffo contro la Serie A, contro una squadra, quella di Ateio Caia di Varese, che graziata da una precisione importante da 3, 14 su 29 alla fine, ma che dà quella fisicità, aggredisce, da quella energia che i giocatori di coach Martino probabilmente non si aspettavano, e non hanno avuto tempi di reazione. Alla fine ne fa 18 oratori, molto nel garbage time, quando contava niente. Fortitudo è stata sotto anche di 30 punti. Roberts è un rookie per il campionato, quindi deve prendere un attimo le misure, ma la cosa che ha fatto più impressione è l'energia, la fisicità che ha messo Varese contro la Fortitudo, l'ha preso un po' a schiaffi, cosa che magari si attendeva che facesse un pochino di più Venezia domenica scorsa, ma non è stato. Come ha detto nel dopopartita coach Antimo Martino, sono gare queste che fanno bene, che ti portano sulla terra, cioè sul tuo campionato. Probabilmente un po' di euforia per la vittoria di domenica contro Venezia era arrivato, ora domenica arriva a Treviso, una partita storicamente importante per la Fortitudo, per i suoi tifosi, e qui bisognerà vedere un attimo di riprendere il cammino, male praticamente tutti, non si salva nessuno se non appunto a Radori per il punteggio, qualcosa ha fatto vedere Fantinelli perlomeno con 8 rimbalzi, ma diciamo così non si è entrati bene nella partita, si è stati travolti dagli avversari, questo è stato determinante per il prosieguo della gara. Gara anche questa molto bella a mio avviso, quella che si è giocata al Paladozza fra la Virtus e la Reia. La Virtus vince 75-70 dopo che era stata sotto nel punteggio per oltre 35 minuti. Esordio è in campionato per Milos Teodosic, che alla fine ne fa 22-17 nel primo tempo ed è sicuramente uno degli artefici della vittoria, assieme a un secondo tempo molto importante di Kyle Wims, che alla fine ne fa 14 ma con 8 punti decisivi nel finale. Poi un gamble che fa fatica in difesa contro Mitchell Watt, però alla fine prende giù 9 rimbalzi, e bene anche Hunter che ha dato fisicità soprattutto nel finale, negli ultimi 5 minuti quando la partita è girata a favore dei bianconeri. Una Virtus che fa fatica a tirare da fuori, Gaines alla fine conclude la sua partita con uno sotto dal campo, ma con una tripla, anche questo in un momento decisivo. La grande difesa di coach Djordjevic è in questo momento il marchio di fabbrica. La cosa importante che si è visto ieri sera è che la squadra si cerca, si passa la palla e non ha avuto troppa frenesia quando il tiro non entrava, e quando invece a Venezia sembrava che il canestro fosse molto più grande. Una bella vittoria che consente alla Virtus di guardare il futuro con un pochino più di tranquillità, perché una sconfitta con una diretta concorrente avrebbe aperto un po' di problematiche. La Virtus che in settimana ha inserito un giocatore, quindi un pivot, quindi con la possibilità di ruotare in Coppa che ci sarà mercoledì, arriva qui la squadra siciliana della Poel, e quindi una partita a mio avviso alla portata dei bianconeri, che poi domenica andranno in campionato in quel di Pesaro. Quindi Teodosic che è entrato, e aspettiamoci, come ha detto poi anche coach Djordjevic nel dopopartita, a lui che deve trovare l'equilibrio, quindi può darsi che ci saranno delle partite con degli alti e bassi, però si è visto che ha una grandissima voglia di giocare, buone letture assieme anche a Markovic, e con una squadra che ha in questo momento la pazienza di cercarsi, la pazienza di difendere. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. soon you'll grow. So take a chance with a couple of kooks. I'm up and romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our love story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks. I'm up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks. I'm up on romancing. Will you stay in my lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks. Già, e sono solo ormai, ripenso ancora a noi, a poche ore fa, quando parlavo insieme a te, quando tu eri con me. Vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani. Scenderà e tu ritornerai, manca poco ormai e sto pensando già, quando riparlerò con te. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. E questo valserino di Bertolt Brecht, il valzer della borghesia, reinterpretato da William Brocker, la sua band, ben inquadra questo clima autunnale un po' malinconico che va a aprire la nostra rassegna stampa. Dunque sono esattamente le 9:29 minuti di questo lunedì 7 ottobre, e cominciando la pagina internazionale. Vedremo poi diverse elezioni che sono svolte vicino all'Italia, quindi anche davvero importanti per il nostro paese, ma prima un flash che arriva dall'agenzia di questa mattina e che a sua volta prende dalla Casa Bianca, che annuncia una possibile invasione turca della Siria settentrionale mirante a colpire le forze curde nella regione, quelle alleate degli USA nella guerra all'ISIS. L'intenzione del governo di Ankara è stata resa nota dalla responsabile della comunicazione della Casa Bianca, Stephanie Grisham, dopo un colloquio col presidente turco Erdogan e quello americano Trump. Gli USA hanno precisato che non sosterranno né saranno coinvolti in questa operazione. Quindi Ponzio Pilato che si lava le mani e si volta dall'altra parte, ma tutto questo naturalmente vede l'eterna lotta dei curdi contro anche il gigante turco di Erdogan, ma vede anche lo scacchiere internazionale che poi arriva nella faglia di guerra all'attuale teatro bellico dello Yemen e i futuri contendenti in diretta, non solo per terza persona, possa essere l'Arabia Saudita, l'Iran, l'Israele e quant'altro. Quindi uno scenario davvero drammatico. In tutto questo spostiamoci invece dal Maghreb al Mashra, nel mondo occidentale, del mondo musulmano, e andiamo in Tunisia. La Tunisia è l'unico paese che ha visto vincente la primavera di Ciclamini, la rivoluzione araba, ma poi ha visto sfiorire la democrazia in poco a poco, nello scetticismo e nella disoccupazione. Ora, leggo dal giornale, la Tunisia sceglie i deputati nello strano voto spezzatino tra i turni delle presidenziali. Oltre 7 milioni di aventi diritto tunisini sono stati chiamati ieri ad eleggere i 217 parlamentari dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, il Parlamento monocamerale della Tunisia. Si tratta di un passaggio fondamentale per la trasmissione democratica della Tunisia iniziata nel 2011 con la cosiddetta rivoluzione dei Gelsomini e oggi alle prese con una grave crisi politica, economica e anche sociali. La tempistica delle consultazioni è singolare. Prima del 13 ottobre, dopo il primo turno tenuto lo scorso 15 settembre, la composizione del Parlamento sarà dunque nota prima del secondo turno per eleggere il nuovo inquilino di Palazzo Cartagine, cioè il Presidente della Repubblica, ed essendo una Repubblica presidenzialista, una cosa molto rilevante. E quello che è ancora più rilevante è che in questo turno si è astenuto quasi l'80% della popolazione, in particolare i giovani, tutte le forze democratiche che avevano animato la rivoluzione dei Ciclamini. Mi sposti invece nei Balcani, in Kosovo. Il Kosovo che è un paese che è ombra, dice il giornale da cui sto prendendo queste notizie, perché non è stato riconosciuto ancora dall'ONU per il veto di Serbia, Russia e Cina, quindi è un paese che c'è e non c'è, e c'è un paese che è sempre in un clima di guerra. Ma in questo paese i quasi 2 milioni di abitanti in realtà non sembrano tanto preoccupati dalle relazioni internazionali quanto dalla crisi economica, un po' come la Tunisia, dalla crescente disoccupazione, dalla corruzione del sistema politico e del sistema sanitario che fa acqua da tutte le parti. Un malcontento generale che si pensa potrebbe penalizzare i partiti della guerra guidati dagli ex comandanti della guerriglia indipendentista, i vertici del Kosovo dell'indipendenza, il PDK, Partito Democratico del Kurdistan, il presidente Hashim Tashi, e la KK, Alleanza per il futuro del Kosovo, del primo ministro uscente Ramush Haradi. Vengono divisi tutti e potrebbero essere voluti da una coalizione tra centrodestra, tra la Lega Democratica in Kosovo, l'LDK, e la sinistra internazionalista. Il vice Roje, l'autodeterminazione in tal caso, Bijan Rami, potrebbe diventare la prima donna a guidare il Kosovo. Questo è il tema. Poi naturalmente fuori da questi furori elettorali, non solo, si arriva il Portogallo, che sembra un paese di altri tempi, perché tutti i sovranisti non attecchiscono, c'è un centro-destra e un centro-sinistra, c'è la sinistra, insomma sembra di vedere un film italiano magari di 30 anni fa, Questo è. Allora, Portogallo, la riconferma socialista, dice il Corriere. Elezioni, il Premier Costa al 37%, non avrà la maggioranza assoluta. L'opposizione è al 30%. Questo è i giornali che naturalmente ci danno i temi degli exit poll. Ma vediamo questa mattina, quando già i dati sono quasi certi, definitivi. I socialisti portoghesi hanno vinto col 36% dei voti, 95 seggi su 230, seguiti dal PSD, Partito Social Democratico di Centrodestra, al 28,1%, 70 seggi. Terzo, il blocco di sinistra col 9,6%, 16 seggi. Poi la coalizione di sinistra del 6,3%, 9 seggi, quindi hanno più del 7% le due sinistre messe insieme. Poi arrivano i popolari di destra col 4,2% e gli ambientalisti del PAN al 3,3%. Quindi anche qui anche i verdi hanno un certo risultato. La stabilità politica è essenziale per la credibilità dell'interno del paese, dichiarato Costa, che avvererà colloqui con gli altri partiti per trovare un'intesa che nei prossimi 4 anni. Vedremo se si rifarà una pool di centro-sinistra tra socialisti e sinistre, o si cercherà una soluzione di centro magari con qualche ambientalista in più. Sarà il fatto che il Portogallo è riuscita a mettere insieme la lotta al debito e delle riforme e lotta alla disoccupazione, adesso la gente gli dà fiducia. Sì, nuovamente buongiorno, io corredo le notizie in partenza dall'estero già date da Alfredo, restando in zona Maghreb dopo la Tunisia e il Marocco. A pagina 9, la battaglia per i diritti e la libertà, sono le donne a scuotere il Marocco. Una giornalista di 28 anni, Hakar Rassouni, è stata arrestata, incarcerata in Marocco il 31 agosto per aborto illegale, dissolutezza e sesso al di fuori dal matrimonio. La donna, pensate, rischia fino a 2 anni di prigione. Questa vicenda provoca rabbia e indignazione nella società civile marocchina. Siamo a pagina 9 della Stampa. Proseguono queste rivoluzioni, proseguono questi sentimenti di democrazia e queste forze che portano avanti certamente quello che è un movimento che da dopo un determinato periodo ha riportato una ventata in una zona che più che Santa Barbara sta diventando veramente un incendio vero e proprio. La protesta contro la legge chi punisce l'aborto e il sesso fuori dal matrimonio. La società, come vi dicevo, si sta battendo per cambiare le leggi che sono in contraddizione con la realtà sociale del paese. L'era inaugurata 20 anni fa dal re permise la liberazione dei costumi a patto di agire, pensate, con discrezione, questa parola, no? Che poi non ha esattamente un confine. In Marocco possiamo aggirare molti divieti se non lo rivendichiamo in piazza. L'ipocrisia, che poi diventa ovviamente protagonista in un clima di tal genere, è di prammatica. Questo porta a una certa schizofrenia di cui spesso si occupa la Stampa, per non parlare poi dell'omosessualità, che è vietata. L'omosessualità è vietata ed è punita con il carcere. Ma restiamo, come vi ho detto, sulla Stampa. A pagina 8, ricca e forbita la pagina degli esteri dal quotidiano torinese. Giovani tunisini senza futuro, la democrazia non ci basta, le disuguaglianze possono minare le conquiste della rivoluzione. Ricordo che nella famosa fascia di rivoluzione maghrebina, quella del Tunisini fu una delle più volte a sinistra, un partito socialista importante, una democrazia che è stata protagonista per quanto riguarda i principi delle piazze di giovani sostenitrici, ad esempio qui ritratte nel partito islamico Ennahda durante un corteo. Domenica si svolgeranno i ballottaggi per le presidenziali. Ennahda è in vantaggio. I primi ex poll delle elezioni legislative danno in testa questo partito con il 17,5%. La formazione del magnate in cella invece, Nobi Kaou, nella foto qui la moglie al seggio, con il 15,6%. Il partito desturiano libero di Abir Moussi con il 6,8%. La coalizione islamista Al-Karam. Comunque è stata bassa l'affluenza alle urne, che si è fermata al 41,3%, mentre nel 2014 era stata del 69%. Domenica in programma il ballottaggio delle presidenziali. In zona cambio quotidiano e prendo la Repubblica, si parla di Regeni. L'Egitto non risponde da 6 mesi, oggi i genitori alla Farnesina per incontrare Di Maio e chiedere il ritiro dell'ambasciatore. Ma completo anch'io con il Portogallo, che tornando in Europa ma sempre restando veramente vicino. Del resto il Mediterraneo, come dicevo, è un bacino multiculturale fondamentale. Portogallo, il trionfo del socialista Costa, ma per governare governare serve un patto a sinistra. Il PS del premier uscente sfiora il 40%. La priorità è dare stabilità al paese. Ma anche in questo caso, a proposito di grandi sconfitte, c'è un grande crollo dell'affluenza. E allora, dedicata al Portogallo, questo paese in assoluta controtendenza, andiamo a una grande cantante portoghese, Joao, accompagnata da una grande pianista, questa volta giapponese che abita a Berlino, Takashi. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of brightness of day, the duck says good night, and I think to myself, what a wonderful world. The color Joao portoghese che cantava la Wonderful World di Louis Armstrong, questa canzone che è l'intrisa di ottimismo, non a caso vi è messa nell'ultima scena di Good Morning Vietnam, perché pur nel gorgo della guerra la speranza dell'umanità è sempre viva, con la voce del grande Louis. E ci vuole molto ottimismo ad Hong Kong, per esempio, perché le cose non vanno affatto per il meglio. Ad Hong Kong, nel 18° weekend di scontri e nel secondo giorno del varo della legge speciale contro l'uso delle maschere, migliaia di nuovi in marcia con il volto coperto in segno di sfida. La polizia usa i lacrimogeni, carica bastone ed opera decine di arresti. Un ulteriore segno di escalation quando uno dei cortei si è fatto sotto la caserma dell'esercito cinese a Kowloon e un soldato del tetto ha innalzato una bandiera gialla per ammonire i manifestanti ad allontanarsi immediatamente. Fonti diplomatiche occidentali dicono che l'esercito popolare di liberazione ha raddoppiato il suo contingente ad Hong Kong. Ora ci sarebbero 10.000 militari e nuclei di polizia armata. Questa è una vicenda di cui non si intravede sicuramente una, per il momento almeno, una sorta di soluzione diplomatica, politica. Poi vado invece al delitto Khashoggi, quello che è stato fatto a pezzi dell'ambasciata dell'Arabia Saudita in Turchia, di Istanbul, secondo proprio il corpo segreto e speciale del Bin Salman, il re saudita fetente del petrolio. Il dossier a un anno dell'omicidio è ripreso da Jean-Pierre Perron del Fatto Quotidiano, dove Khashoggi è tutt'altro che una figura limpida, anche se sicuramente vittima, quando Khashoggi incontrò Bin Laden sui monti afghani. Una vita spericolata, nipote del ricchissimo trafficante d'armi, ben inserito nella famiglia reale con legami solidi con i servizi segreti, quindi non è un eroe della libera informazione dipendente, solo che ha rotto. E in questo caso cane mangia cane. Quindi la vita controversa, così chiamiamola controversa, col Fatto Quotidiano, del giornalista assassinato per volere del principe saudita. La rottura con Bin Salman, cioè il principe saudita, per la guerra in Yemen. Poi con la primavera araba divenne un problema per il regno perché affermava non ci sarà democrazia escludendo gli islamisti dalla politica. Questo è Khashoggi. Poi la cronaca invece ci porta a Kitzbühel in Austria, famosa per le Olimpiadi invernali, ma in questo caso per il femminicidio tremendo. Strage nella Perla del Tirolo, ne uccide 5 per gelosia. Questo ha fatto uno stock. Un 25enne spara l'ex e il suo fidanzato, ai genitori e al fratello. La polizia, dicono, in quella paciosa, apparentemente paciosa Austria, ma non è paciosa per nulla, ma è vista qui una tragedia simile. Sì, proseguiamo con gli esteri. Allora, dagli Stati Uniti d'America prosegue il romanzo di Spy Story sulla telefonata Trump-Zelensky. Spunta una seconda talpa, il nuovo whistleblower, il nuovo fischietto, un membro della comunità di intelligence, avrebbe assistito alla conversazione con il presidente ucraino. La replica di Biden, il punto che ha una conoscenza diretta dei fatti e quindi forse ha assistito alla chiamata, taglia le gambe alla difesa di Trump, secondo cui i suoi accusatori non sanno di cosa parlano. Inoltre, se era presente, potrebbe aggiungere nuovi dettagli. La difesa di Trump è una caccia alle streghe, non sapete quello che state dicendo, e così, insomma, degli argomenti. Tu ce l'hai più di me, ecco, delle cose che non hanno una grande concretezza. Del resto qualcosa è successo e come. Nuovi dettagli non contenuti nella trascrizione della telefonata pubblica della Casa Bianca, capaci di confermare la motivazione del presidente ad offrire on doubt death Zelensky per colpire Biden. Ieri il candidato democratico ha risposto alla tempesta mediatica che gli sta facendo perdere terreno nei sondaggi, nei finanziamenti elettorali, pubblicando un editoriale sul Post in cui accusa Trump di aver abusato i suoi poteri. Non ti consentirò di distruggere me e la mia famiglia. Al momento solo 3 senatori repubblicani, Romney, Sasson, Collins, hanno criticato il presidente, confermando che sarà molto difficile arrivare alla maggioranza qualificata di 2/3 necessaria a far approvare il famoso impeachment. Si parlava ancora di Stati Uniti d'America, sempre sulla stampa a pagina 14, con la Nord Corea che blocca il dialogo sul nucleare con gli americani. La Corea del Nord ha interrotto i nuovi negoziati con gli Stati Uniti dopo un solo giorno di trattative, ha però accusando Washington di essersi presentata nell'appuntamento di Stoccolma senza proposte, ma con l'unico obiettivo di ottenere un accordo che favorisca la rielezione di Trump. È il primo segnale di una tendenza che promette di ripetersi su altri fronti della politica estera nel prossimo anno, a maggior ragione a causa dell'incertezza provocata dall'inchiesta sull'impeachment, di cui prima già si parlava. Insomma, ci avviciniamo all'Italia, lo facciamo con argomentazioni che riguardano l'estero, e lo facciamo purtroppo sempre sullo sfruttamento del corpo delle donne. Pagina 12 e pagina 13 è il reportage dal quotidiano torinese, le mani della mafia albanese sulle strade. Sono 120.000 le schiave del sesso in Italia. In un decennio il fatturato della prostituzione è cresciuto del 28%, ha raggiunto i 4 miliardi di euro annui, sono 3,5 milioni i clienti. Il controllo del clan sulla tratta dell'Africa e dall'est Europa, anche le italiane finiscono sul marciapiede, truffate. In Romania, pensate, altro che medioevo, in Romania con 1000 euro si acquista una ragazza da destinare al mercimonio coatto. Vite strappate dall'inferno, questo è il libro di Aldo Buonaiuto, Donne crocefisse, la vergogna della tratta raccontata dalla strada. È questo libro che viene così messo a fondo pagina, a pagina 13, per denunciare questa forma di sfruttamento allucinante che purtroppo, dai dati che abbiamo letto, è è in piena crescita. Le figlie femmine sono oro per i rumeni, spiega Nicole Puiu, e lei a raccontare la storia di Corinna e delle sue sorelle. Tre vite vendute per meno di 1.000 euro della loro mamma e l'overboy rumeni. Sono le sue cugine, figlie di una sorella della mamma. Nicole ne parla perché vorrebbe salvarle, come sta provando a salvare se stessa. Anche sulla strada è capitato un loverboy, alla faccia dell'amante, eh? Nessuno l'ha venduta e lui glielo ha imposto. In trappola è finita da solo. Mi sono sposata 20 anni in Romania, il nostro era un bellissimo amore, è nato il primo figlio, è nato il secondo, poi lui ha iniziato a buttare tutti i nostri soldi nel gioco d'azzardo. Dovevo trovare un lavoro, mi hanno offerto un posto come cameriere in un bar di Monza. Ho lasciato i figli ai miei genitori, sono venuto in Italia, mi sono ritrovata senza più un lavoro con una persona accanto che sembrava dolcissima e ha chiesto di prostituirmi per qualche mese in modo da tornare in Romania con qualche soldo. A casa avevano bisogno, i problemi erano tanti, io mi sentivo in dovere di risolverli a tutti. L'ho accontentata e sono finita in un baratro. Ero convinta di non poterne più uscire. Questo è l'incubo, ma gli incubi di queste donne sono tanti, purtroppo, perché tante sono loro. E allora mi sposto in Argentina con l'articolo di Alessandra Coppola dal Corriere. Le ribelli del tango, un bastione della tradizione nell'era del movimento Me Too. Festival, laboratori, documentari, battaglie, un movimento che vuole eliminare il machismo dal ballo simbolo dell'Argentina. E poi si intervista la leader Liliana Furco. Ma la donna avanza, l'uomo le blocca il piede, lui indica la direzione, lei gira, lei tenta un passo e lui la riporta indietro. A guardare i movimenti la milonga con occhi femministi, il tango diventa un bastione del machismo argentino, così dice Liliana Furco. Un brusco dominatore, una condiscendente dominata. Rinunciare a ballare allora? No, piuttosto ballarli in modo diverso. Non è un'idea nuova, ma in questa vivace stagione di battaglie contro la violenza di genere per la legalizzazione dell'aborto che sta scaldando l'Argentina, ha preso forza un movimento specifico, Movimento Femminista del Tango. Un festival si è chiuso ieri in un laboratorio a Prebrus, Buenos Aires, il prossimo fine settimana. E allora il Corriere, per spiegarci una filosofia machista del tango, ci riporta un super campione del canto tanghero, Edmundo Rivero, con questo Amablemente, ovvero sia gentilmente. È il titolo di un brano preso ad esempio di un certo modo di rappresentare il rapporto uomo-donna nel mondo del tango. Racconta la storia di un personaggio maschile che scopre la sua compagna nelle braccia di un altro. L'autore del testo, tal Ivan Diez, scrive che in questi casi l'uomo non è colpevole. Nella canzone l'amante tradito chiede con noncuranza alla sua donna di preparargli qualcosa da bere, dopodiché si protende come per baciarla alla fronte e gentilmente la pugnala 34 volte. Thank you. veniamo allora, dopo il tango argentino di Piazzolla e Squalo, veniamo alla pagina italiana. Oggi sarà un giorno in cui la democrazia rappresentativa verrà amputata se, come sembra proprio, il Parlamento deciderà il taglio dei parlamentari invece di decidere il taglio dei loro stipendi, e verrà invece di tagliare il numero per lasciare inalterati i stipendi di quelli che rimangono. Comunque, veniamo ai titoli dei giornali, che vedono il solito Vietnam all'interno del governo. Ormai sembra di vedere il lupo al lupo, magari prima o poi il giorno il lupo arriverà. Oggi il Corriere apre con doppio fronte nel governo. Da una parte il 5 Stelle contesta il patto sugli F-35, effettivamente quando si parla di mancanza di risorse, oddio, quello che spendiamo gli F-35. Ma poi abbiamo Conte apre, ma Renzi lo incalza sul Russia Gate. Ecco che Renzi con Italia Viva è a tutto campo, ogni giorno si inventa una polemica per logorare il PD e per cercare di agganciare Berlusconi. Questa è la sostanza. Conte deve difendersi dal tiro incrociato all'interno della maggioranza. I 5 Stelle lo contestano sul patto che il Presidente del Consiglio avrebbe stretto col segretario di Stato americano sugli aerei F-35. E il Premier pronto a rinegoziare, mentre Renzi l'attacca su Russia Gate. Deve chiarire. Naturalmente chi approfitta di Renzi è la destra, anche la destra estrema, vediamo la verità. Tra Renzi e Conte, guerra di spie. La spy story che fa vacillare il governo. Il leader di Italia Viva va all'attacco, il Premier tace, ma fino a quando? Al dovere di spiegare cosa è successo il 15 d'agosto e cosa garantì agli USA, questo è il vero Russia Gate, contribuì alla nascita del suo nuovo esecutivo, potrebbe decretarne la fine. Dice più che speranzioso la pagina della verità. Il messaggero Russia Gate sfida Conte Renzi, cosa che è analoga sul Mattino e sulla Stampa. Sulla Stampa bufera sui servizi, il Conte resiste. Sul Mattino Russia 007 la sfida di Renzi. Quindi abbiamo altri spunti che arrivano da altri giornali. Anche il Giornale, seppur in prima pagina di spalle, chiarisca sui 007, Renzi contro Conte, cede sull'aumento IVA ma pretende i servizi, alta tensione nella maggioranza, Giuseppe Marino. Ma all'interno Renzi avverte Conte, spieghi tutto sui 007, moli la delega e vada al COPASIR, il ministro Bellanova capo delegazione del partito ma è pronto a intervenire. Quindi questo è il tema, ma anche al Giornale non sfuggono in retroscena, che sono abbastanza avanscena a questo punto. Il PD evoca le elezioni per disinnescare le trappole di Matteo. Da Letta Franceschini cresce il malumore verso l'ex leader, non finiremo come Monti. Dice Orlando, non è che lanciare un ultimatum al Dal Papete è peggio che farlo dalla Leopolda. Basta o si sfascia tutto. E quindi diciamo un elettorato progressista che è terrorizzato dall'idea di avere Salvini Premier e Meloni ministro dell'interno, vede sfasciarsi un governo o forse il rischio di sfasciarsi per questioni di botteghe interne, che non è affatto entusiasmante, ma mai siamo abituati alle tristezze, andiamo avanti così. E quindi la vignetta del Giannelli vede un Orlando che è il medico e misura la pressione a Conte. Disturbi di pressione, ci vuole una calmante. Per chi, domanda il Premier? Per Renzi, risponde il dottore. Sì, anche per, giustamente come l'ha definito Alfredo, il Vietnam, se restiamo in maniera proprio avanzando pagina per pagina dai quotidiani anche da me selezionati, le argomentazioni sono proprio queste. Da Repubblica allora, titolo principale, gli 80 euro di Renzi diventano bonus famiglia, la mossa PD d'intesa con il Premier 5 Stelle per neutralizzare l'offensiva di Italia Viva sul cuneo fiscale. Un piano antievasione dell'INPS per recuperare fino a 7 miliardi. Il taglio dei parlamentari arriva alla Camera. Si parla anche del Russia Gate. La Repubblica mantiene la caratteristica di mettere insieme diverse organizzazioni e argomentazioni, scusate, di apertura. Polemica sui servizi segreti. Conte difende i vertici dicendo caccerò le talpe. Fino a pagina 7 si arriva con queste argomentazioni. Tregua armata a Renzi, PD subito il cuneo fiscale, leader di Italia Viva, siamo d'accordo a ridurre le tasse purché il governo non alzi l'IVA, si punta a sostenere 3,2 milioni di lavoratori a basso reddito, le loro entrate potranno migliorare così di circa l'11%, l'Unione Europea congedi lunghi, assegni pro natalità, l'Italia in tutto ciò in ritardo. Sì, non c'era bisogno dell'Unione Europea per arrivare a questo, anche perché in Germania, in Francia, in Portogallo, in Irlanda, in Svezia e anche in Lettonia il bonus bebè e poi assegni per i figli fino ai 15 15 anni, 18 per i disabili, congedo maternità fino a 140 giorni, insomma, e tante altre situazioni, come in Francia, bonus bebè da 946 euro per la nascita e 1892 per l'adozione, ampi contributi per asili e babysitting, tutte cose che da noi sembrano lontane anni luce. In Portogallo, contributi in base al reddito, congedo fino a 150 giorni, sussidi, ah questa è bella, sussidi per i nonni che sostituiscono i genitori, insomma c'è da copiare se vogliamo, o almeno da adeguarsi, probabilmente è la parola più giusta. Ma per quanto riguarda quello che è il fisco, i conti e il piano antievasione dell'INPS, resto a pagina 6 sempre di Repubblica. Il piano antievasione dell'INPS per recuperare quanto 7 miliardi, il presidente dell'ente Pasquale Tridico propone l'unica riforma con l'INAIL, l'agenzia delle entrate, per smascherare le compensazioni fiscali fraudolente, oggi vertice alla ragioneria per verificarne la fattibilità. Allora, è un reportage, al lunedì sapete, spesso sia il Fatto Quotidiano, Repubblica, altri quotidiani approfondiscono argomenti, ad esempio Svizzera, Dio fisco, la grande fuga sapete dov'è? È negli Emirati, la Svizzera non va più di moda, Panama è diventata scomoda, Bermuda è troppo sospetta, il Lussemburgo è troppo costoso, sì, e Polesella è troppo in là, non so cosa vogliamo aggiungere, ma l'evasore grande e medio ha già trovato un'altra oasi che offre zero tasse, tanta riservatezza, gli Emirati Arabi, graticeli altissimi e controlli bassi, banche efficienti e regole carenti. Che bello, è un paradiso, veramente ha visto delle caratteristiche che meglio di così. La Mecca del quattrino in nero che approda il dopo aver rimbalzato tra fatture di comodo e costi gonfiati. Insomma, questi paradisi fiscali, secondo l'Unione Europea, beh, è una fascia centrale nel mondo che va da Panama, Granada, Barbados, Trinidad e Tobago, Bahrain, Macao, Guam, Isole Marshall, Samoa, Samoa Americane e anche non lo sapevo, anche la Mongolia, questa bella peculiarità, insomma. Questo a pagina 7 di Repubblica. La Stampa bufera sui servizi, Conte resiste, nelle prime pagine dentro la maggioranza Marcello Sorgi fa un editoriale, il grande gioco degli 07, adesso lasci la delega, l'intervista sapete chi è a Casini, il premier impari dal passato e ceda la delega, Pier Ferdinando Casini, senatore, ora il caso Barr rischia di finire in Parlamento, come fecero gli altri più esperti, dice adesso lasci la delega agli 007. Per i servizi segreti servono competenze specifiche, un impegno al 100%. La preoccupazione è che questa situazione finisca per indebolire il governo. In assenza di Forza Italia, che si sta disgregando, Italia Viva può fare la differenza. Si sta disgregando, ma da quel che ho letto, da quel che ho percepito, anche dalle prime pagine di questa mattina, si sta già riunendo in un contesto di destra con Salvini e con la Meloni. I partiti in pressing su Conte, mandi via il capo del DIS, ma il premier dichiara di risposta non si tocca. Dopo Renzi anche il Movimento 5 Stelle contro Vecchione, ma Palazzo Chigi lo difende. Falso incontro all'ambasciata degli Stati Uniti d'America, fiducia negli 007, dice vi sarà assolutamente un chiarimento. Questa è la Repubblica, e si conclude con il resto del Carlino che finalmente vado a prendere, perché l'argomento, come vi ho detto, è presente a livello di riforme Vietnam, di politica interna, come è stato definito, non può mancare il quotidiano Felsinio e il Carlino. Domani il taglio dei parlamentari, sale la tensione, è una riforma utile o no? Titolo la sforbiciata, anche se poi per andare in approfondimento, il taglio dei parlamentari, vincono i grillini, il PD cambia idea, domani voterà la riforma, anche il centrodestra è favorevole. Timori di defezioni in aula per il governo giallorosso, è la prima prova di tenuta politica. Salvini alla fine decide per il sì. Prendiamo un altro argomento che per il Carlino è come sotto la testata, titolo principale, Renzi è pronto, liste alle regionali, in Emilia al fianco di Bonaccini e, come dicevo in precedenza, si ricompatta al centrodestra. Pagina 5, Renzi cambia schema, corro alle regionali, il leader di Italia Viva, sosterrò il mio amico Bonaccini, nuove bordate col PD. Qui Emilia, non è stato ancora deciso se presentarsi con liste diverse, proprie o civiche d'area. Vi dicevo del centrodestra prima di passare ad Alfredo, ci proponiamo di liberare gli italiani da questa maggioranza ed eccolo qui il terzetto, Berlusconi, Salvini e Meloni provano con un vertice a Milano per rimettere in marcia il centrodestra. Sempre continuando sui retroscena, anche perché questo vuoto dei partiti favorisce i retroscenisti e anche tutta la bolla, come se non se ne fosse abbastanza di suo, e la schiuma che i giornali ci aggiungono. Perché c'è anche questo elemento da considerare, la mediaticità, in cui tutto viene, ciò che fa sensazione, se c'è viene amplificato, se non c'è viene inventato. Però il retroscenista stavolta è Monica Guerzoni dal Corriere. Lo spettro di nuova uscita allarma il PD. Naturalmente chi sia la gola profonda, i rumors, da dove scaturiscono i rumors, non si sa, non viene detto, quindi possono essere rumors interessati, rumors reali, rumors anche qui tirati come bombe in piccionaia. Lo spettro di nuova uscita allarma il PD. Asse con Conte per limitare Italia Viva, ora si tema per la tenuta dell'alleanza. Ma Renziano presto con noi altri 10, i contatti con Franceschini e con la Boschi. Questo è il quadro da Il Corriere. A proposito di arrivi non solo dal PD, sappiamo che sono dei leghisti, ci sono, scusate, dei 5 Stelle che guarderebbero Italia Viva, e c'è anche un arrivo che è sorprendente. Il nuovo partito di Renzi ospiterà anche pure chi? Renata Polverini. Lo dice, è la previsione che ci dà Contropiano in questo articolo di Sergio Scorza. Ora io francamente, ingenuamente, ho pensato che la Polverini, visto il suo passato nero, uscendo da Forza Italia, andasse in Fratelli d'Italia, anche l'ultima segna stampa, chiedo scusa, perché sembrerebbe che invece la signora viene colpita come San Paolo sulla strada di Damasco da Italia Viva di Renzi. E l'autoritarismo che forse attrae la Polverini viene ben spiegato da quest'articolo. Renzi, che voleva una legge nota come Italicum con un sistema maggioritario e un conventuale doppio turno, bocciato dalla Corte Costituzionale, quindi questo è solamente per dirne uno, e per non dire poi l'elemento plebiscitario e Renzi, lo Stato sono io, è un altro elemento che piace molto a una cultura di destra. E allora impietosamente ricorda il Contropiano: quanti sono quelli che ancora nel PD e che fino alla batosta del 6 dicembre 2016 dicevano con lui si vince sempre? E viva la sua idea di sinistra riformatrice. Basta con i vecchi arnesi della sinistra. I veri partigiani votano sì. Anche quelli che sfilano in blu il 25 aprile perché così è più inclusivo. Tanti e molti anche tra quelli che se ne sono successivamente staccati. E allora ecco perché non mi stupisce affatto che una nota fascista dichiari vuole sposare il suo progetto proprio ora che quello di Salvini sembra essersi appannato, mentre sono già partite le grandi manovre per depotenziare il suo eventuale ritorno mediante una nuova riforma elettorale. Renzi e salvinismo non sono altro che due variabili, la stessa malattia, dice impietosamente questa pagina di Contropiano. Però parla un renziano, che è uno di Italia Viva, Luigi Marattin. Il nostro no sull'IVA ha creato un'escalation, ora parliamoci di più. Anche lui è preoccupato perché dice che la situazione è scappata di mano. E quindi dice: quando si inizia a creare tensione, segue un crescendo che non fa bene. Servono più calma e più sangue freddo. Però ripeto che ci sono le condizioni per iniziare a volar bene. Fidiamoci un po' più uno degli altri. Mi sembra difficile fidarsi in questo contesto. E ancora, proprio voi renziani avete sollecitato un esecutivo contro i grillini per allontanare il pericolo Salvini. Gli scontri nella maggioranza non faranno crescere l'opposizione. Siamo consci del rischio. Una maggioranza non coesa dall'idea di un governo debole. Per questo, ripeto, ricominciamo. No, dice ricominciamo più sobriamente. Poi c'è i grillini che atterrano il Premier sugli F-35. L'altro coro, il problema evocato già dal primo titolo del Corriere della Sera, viene ripreso anche dal giornale. Nuovo fronte di scontro dopo l'ok di Conte e USA, e a Palazzo Chigi ci ripensa. F-35, l'ira di Di Maio per la fuga in avanti, poi il Premier apre sulla rinegoziazione, perché Di Maio, di fronte a questo Vietnam, come si diceva, del governo, dice stop litigi e annunci e basta correre dietro a Renzi. Dice una cosa Di Maio che sarebbe anche sacrosanta se non fosse il pulpito: prima fai le cose e poi le di annunci. Ma in Italia, a partire anche dalle questure, dai magistrati, dalla politica, evidentemente prima si fanno le conferenze stampa, poi si fanno le cose, se si fanno. Questo si è invertito l'onere, non della prova ma della decenza. E allora interviene Stefano Lucidi, che è un grillino, che dice: io sempre contrario agli F-35, ma quando governi accetti i compromessi. Lucidi è come la TAV, utilizziamo la TAV, la piattaforma Rousseau, che ormai sembra una sorta di confessionale della piattaforma Rousseau. Ferrara sostiene pure, l'altro grillino, che un ridimensionamento del programma F-35 consiglierebbe di liberare miliardi per le scuole, gli ospedali, eccetera. Direi un argomento, sì, difficilmente discutibile. Invece lui lo discute, Stefano Lucidi. senatore dei 5 Stelle. Le risorse per le scuole e gli ospedali dovremmo comunque essere bravi a trovarle comunque. Cioè, non dice dove trovarle, ma dobbiamo essere bravi. Perché dobbiamo essere realisti. E quando c'è la parola realismo, io sento sempre puzza, scusate il francesismo, di cacca. Ma dobbiamo essere realisti. Le spese militari hanno sempre guidato l'economia delle nazioni occidentali. Io non sono un bellicista. L'articolo 11 della Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra. Però, io non sono razzista, ma qui sono. Comunque dobbiamo difenderci. Gli F-35 sono un sistema di difesa avanguardia. Ora che gli F-35 non servono per la difesa, innanzitutto, perché sono dei aerei di incursione, quindi aerei d'attacco, perciò non è quale difesa. È come quando si dice che il ministro della difesa dichiara guerra a un altro paese, ma quale difesa? Comunque, chi dice stop alla produzione di armi probabilmente non ha ben chiaro di cosa stiamo parlando. Qui non si tratta di bombe e pistole, ma di altissima tecnologia elettronica, logistica, attrezzature indotto, insomma migliaia di posti di lavoro. Io so di cosa sto parlando. Sarà altissima, come dice, altissima tecnologia elettronica, ma uccide come le bombe, pistole, anzi, uccide meglio. Si torna a parlare, a pagina 8, visto che prima è stato citato per la politica interna Bonaccini, adesso parliamo di Zingaretti, il Partito Democratico e le elezioni regionali. Umbria, la partita di Zingaretti, l'unione con i 5 Stelle è un'opportunità, la prima volta del segretario a Perugia dopo lo scandalo che ha azzerato la giunta, toni unitari senza mai citare Renzi, ma guarda un po', non avevo dubbi. Nella palestra di Ponte San Giovanni a metà pomeriggio a qualcuno del PD viene un dubbio, non è che abbiamo messo poche sedie. In effetti 250 posti in platea si riempono subito e almeno il triplo delle persone che arriva resta in piedi. Fra i due canestri del campo da basket e i manifesti con la faccia del candidato presidente per le elezioni regionali che nasce dall'accordo PD Movimento 5 Stelle. In Umbria è Vincenzo Bianconi. Chi si aspettava tanta gente? Borbotta un pensionato. E invece eccoli in tanti, giovani, studenti, universitari, gente senza tessera, militanti o volontari in questa frazione di Perugia che è un grande sobborgo di quasi 20.000 abitanti. Ecco, di positivo c'è che si è tornati a sensibilizzare una zona che era il cuore, definito per motivi di grande vegetazione verde d'Italia, ma che era anche un cuore rosso soprattutto dell'Italia, purtroppo dimenticato e purtroppo perso. Comincia nella periferia la campagna elettorale del PD aperta ieri dal segretario Zingaretti. Comincia da un minuto di silenzio che cala pesante, come il pensiero che va ai poliziotti uccisi a Trieste, che riprenderemo tra poco nella cronaca magari dal resto del Carlino. Prima vi parlo a pagina 7 della Stampa, cambiando quotidiano appunto, di l'identità. E che parola, è in balia dell'insicurezza, meno cittadini del mondo, si torna alle radici. Il rapporto del centro studi di Community Group, il senso di appartenenza territoriale si polarizza, calano gli universalisti, aumentano i localisti. A quale delle seguenti aree si sente di appartenere maggiormente? Chiedono all'Italia, chi risponde al mondo intero, però non è tanto più indietro, 25.6 e 26% rispettivamente le risposte, all'Europa 22.4, alla sua regione l'8%, alla sua città o paese il 18%. Poi ci sono i profili delle appartenenze e delle identità territoriali, insomma, ed è un grafico, è uno di quei sondaggi che certo lascia il tempo che trova, però gli italiani hanno identità territoriali bipolari, questo però è vero. Da un lato esprimono un senso di apertura, si sentono cittadini del mondo, dove i confini fisici e tradizionali pesano sempre meno nel definire un'appartenenza, i famosi universalisti, dall'altro i radicati, quelli per cui prevale la centralità del territorio d'origine, l'attaccamento alla cultura locale, alle tradizioni, le identificazioni, i chilometri zero. I primi sono ancora molti rispetto a 5 anni fa, ma è netto calo, il 60% nel 2014, oggi sono il 43.4%. I secondi invece crescono dal 21.6 al 34.9%, insomma, certo che più si va avanti, più questa sensazione è certamente, come vi posso dire, più acuta, no? E a pagina 10 della Stampa, vi parlavo prima della cronaca per quanto riguarda il caso di Trieste, con cui ha aperto in Umbria con un minuto di silenzio, allora mi collego a pagina 10 del resto del Carlino, il video degli agenti eroi, dormite sereni, Trieste, l'ultimo filmato durante un turno di notte, il jeep sulla strage, dice dalle prime indagini il killer era lucido. Sono 16 i colpi di pistola sparati da Alejandro Augusto Stefan Meran, il dominicano che ha ucciso due poliziotti a Trieste dopo aver rubato le pistole. C'era una presunta patologia, la famiglia del killer ripete che Alejandro è malato, sentiva le voci, ma in Italia non era in cura presso alcun centro, come invece sarebbe stato in Germania dove aveva vissuto. E poi l'interrogativo, le fondine, l'inchiesta dovrà accertare l'efficienza delle fondine ora sequestrate. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nega collegamenti tra le tragedie e possibili difetti delle custodie. L'inchiesta, tra pochi giorni le autopsie, solo dopo ci saranno i funerali. Fiori e messaggi intanto arrivano in questura. Parliamo allora di ambiente, anche perché si apre il sinodo nel Vaticano sull'Amazzonia, come racconta il giornale. Papa Francesco al sinodo denuncia: l'Amazzonia brucia per interessi. Il fuoco appiccato dagli interessi. Nella messa di inaugurazione del sinodo ieri è arrivata la denuncia di Papa Francesco contro le devastazioni ambientali. Quando senza amore, senza rispetto si divorano popoli e culture, non è il fuoco di Dio ma del mondo, dice Bergoglio puntando il dito contro gli interessi e l'avidità dei nuovi colonialismi economici e culturali che distruggono le diversità. Un fuoco divoratore, lo definisce nell'omelia. I lavori dell'assise si preannunciano tumultuosi, si chiuderanno alla fine del mese, il 27 ottobre. Sì, si preannunciano tumultuosi perché la destra vaticana ha smesso di essere curiale, dire il Papa ha ragione però, e viene giù di brutto, in parte capitanata dai vescovi di Boston, quelli della Chiesa ricca, che puntano ovviamente per cercare un diversivo su un prete africano nero, ma assolutamente contrario all'immigrazione. Questo è il cavallo di battaglia e quindi sarà molto importante seguire il sinodo per capire anche il futuro del papato di Papa Bergoglio. Ma l'offensiva della destra contro ciò che sa odore di ambientalismo si legge anche dalla prima pagina del giornale. Appello per non dare il Nobel a Greta. Sono gli appelli per dare il Nobel a qualcuno. Ed è curioso che si chiama un appello per combattere una sedicenne. Questo è curioso, sono andato per la disparità dei poteri in campo. Allora c'è una foto con Greta vista sempre come un cane rabbioso, mentre striglia qualche sede dell'ONU o dell'Unione Europea. Più che un premio, una bussola, lo specchio del politicamente corretto. Chi vince il Nobel per la pace in arrivo questa settimana sarà pure uno che è andato controcorrente, ma è ora l'icona del pensiero comune, un impasto sufficientemente vago e dolciastro di convinzioni imbevute in una filantropia progressista, sempre alla ricerca del campione di turno. Così è stato per Al Gore, per i passi precedenti, no? E adesso appunto dice gli eroi contemporanei sono altri. Questo è quello che dice il giornale. Ma in realtà i temi ambientali, anche visti con ottica così di gestione governativa, vengono ben messi in luce dal data room di questo lunedì della Gabanelli. Rifiuti 690 roghi, mancano inceneritori. Per piene levi per i trafficanti di scarti smaltiti illegalmente da Brescia a Bolzano, ecco dove sono gli scarsi impianti che dalla spazzatura con bassa emissione creano energia, anche se naturalmente gli inceneritori non sono certo la soluzione è produrre meno immondizia, meno rifiuti e riciclarne il più possibile. Ma sempre dalle pagine di questo sistema, di questo ragionamento, vado all'economia circolare, così si chiama adesso. Frigo e TV non più usa e getta, l'Europa riduce l'obsolescenza, leggo dal Fatto Quotidiano. Dal 2021 maggiori garanzie sugli interventi in caso di guasto e sulla durata degli apparecchi, il numero di anni in cui i produttori dovranno garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio, perché adesso fanno dei pezzi da lavatrice, lavapiatti o frigoriferi destinati a vivere qualche anno, per così possono essere cambiati. Chi ricorda gli anni 60, i primi frigo Ignis duravano 40 anni perché erano fatti appunto come le calze di seta per durare. Tornare a riparare gli elettrodomestici farà risparmiare 150 euro all'anno a famiglie, evitando l'emissione di oltre 46 milioni di tonnellate di CO2. E uno dice: ma allora perché non lo fanno? Perché danneggia le imprese, ovviamente. La critica: la riparazione per ora resterà nelle mani delle grandi aziende, limitando i clienti. Giro pagina, anzi faccio come il gambero, vado indietro, vado a pagina 17 del Fatto Quotidiano, vado al Monte Coronato in Val di Cecina. C'è una denuncia che arriva da Legambiente. Scempi a norma di legge, il sentiero diventato strada. La denuncia di Legambiente dunque è una via larga 5 metri aperta nel bosco, sbancando la roccia. Nella Toscana Verde, emesso purtroppo tra virgolette il verde, il privato ai permessi ma rilasciati senza far nessuno sopralluogo, anche Settis alla marcia di protesta che è in cantiere. Si è passato, dice Maurizio Bacci di Legambiente, da uno stato idrogeologico stabile privo di rischio a un assetto instabile tale da determinare condizioni di dissesto a rischio. Aggiunge Andrea Sandra Scappellini: se chiudo gli occhi avendo l'immagine attuale del mio territorio e li riapro tra 10 anni rischio di rimanere molto male. Clima, ambiente, andiamo a Parigi. L'intervista a pagina 17 di Repubblica è con l'Hidalgo, la sindaca di Parigi. Cambiare le città, ecco il cuore della sfida per il clima. Terrorismo, Notre Dame, sono stata la sindaca degli anni shock, ma sono riuscita a unire i parigini. Il piano ecologico della prima cittadina, allora, piste ciclabili. La rete infrastrutturale di Parigi è capillare, ramificata con 1400 chilometri di piste ciclabili. Un piano quinquennale programmatico, il Plan Vélo, è in piena realizzazione. Pannelli solari. La capitale francese prevede un calo delle emissioni di anidride carbonica del 50% entro il 2030, dell'80% entro il 2050. Nel 2050 circa il 20% dei tetti di Parigi sarà coperto da pannelli solari. Quindi quell'immagine, no, di Victor Hugo nel Notre Dame, dove dai tetti di Parigi si vede questo panorama, saranno appunto corredati da questa modernizzazione, giustamente per evitare o per ridurre le emissioni. Trasporti, l'amministrazione della capitale ha già varato restrizioni per la circolazione dei veicoli diesel. L'obiettivo è dimezzare il numero di auto private sul territorio urbano, facendole scendere a quota 300.000. Francesco, il sinodo per l'Amazzonia e i roghi sono contro Dio, sì, sono contro anche tutta l'umanità, il pianeta, anche contro quei poveri abitanti delle zone che, come ha detto Bolsonaro, non me ne frega niente di loro perché l'Amazzonia è mia praticamente, anche se ha detto è del Brasile, ma in realtà voleva dire è mia. Attacca gli interessi delle multinazionali e prepara la svolta sui sacerdoti sposati in terre remote. Chissà come è vista bene questa svolta dalla parte più conservatrice della Chiesa. Durante la messa, è qui ripreso ieri nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti delle comunità indigene dell'Amazzonia, appunto, come vi dicevo, massacrati da questi continui incendi e dal disboscare indiscriminato dei territori. Questo non è ecologia, ma è quello che succede a pagina 10 con emergenza rifiuti, con un degrado del territorio e con tutto quello che purtroppo ne è conseguenza. Siamo a Roma, animali a zonzo per la metropoli, nell'Interland romano, ma anche nei quartieri periferici, a destare l'allarme e provocare incidenti di diversa gravità e soprattutto la presenza di cinghiali attirati dalla presente e crescente urbanizzazione anche abusiva e dal mancato smaltimento dei rifiuti, quindi vanno a grufolare in mezzo cercando anche avanzi di cibo. Un maiale si aggira per le strade di Roma nel 2018, un suino ha vagato per giorni nella capitale e si è scoperto che l'animale apparteneva al clan dei Casamonica. E poi cosa succede? La tragedia, grave il degrado a Roma, ucciso da un maiale, grave il bambino che era con lui, tragedia in un insediamento abusivo, potete immaginare, l'animale era dentro un recinto. Il passo falso, il piccolo era entrato nel recinto dei suini ed è subito stato attaccato. Il sacrificio, un operaio romeno di 50 anni, è morto nel tentativo di salvare il bambino. E allora questa pagina ambientale la chiudiamo con un'indagine, anzi un traffico di rifiuti con 11 arresti. Questa notizia di questa mattina succede in nord Italia, in un capannone abbandonato, e questi delinquenti seppellivano altri in una cava dismessa in Calabria. 11 persone, tutte operanti nel settore dei rifiuti connesse con lo stesso giro illecito che emerge dopo il rogo di Corteo Leona in provincia di Pavia, vengono in qualche modo arrestate dai carabinieri del gruppo di Milano, Lodi, Pavia, Torino, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro, mentre il Papa appunto in questo momento apre il sinodo dell'Amazzonia. Noi in questo momento invece torniamo al terra di tutti i film festival, perché c'è ripercussioni da intolleranze alimentari, un progetto che coinvolge ragazzi ospiti dell'Istituto Penale Minorile di Bologna, che si sono fatti interpreti dell'attuale periodo storico attraverso un'ampia e variegata riflessione sul concetto di inquinamento proprio. Il risultato è un docu-clip in parole e musica, al quale hanno collaborato anche i ragazzi della comunità pubblica del Pratello e DJ Farrapo. Ne abbiamo parlato con la regista Agnese Mattanò, allora sentiamo le sue parole. Sì, allora il progetto praticamente è un progetto che va avanti da 10 anni, questo è il 10° anno, quindi insomma quest'anno un po' festeggiamo. Il prodotto che portiamo a fine, insomma, è un docuclip, l'abbiamo chiamato, cioè un documentario musicale, dove i ragazzi esprimono tutte le loro idee, principalmente nei testi che portano poi al rap e alla canzone, insomma, terminata. E poi tutto questo è accompagnato da interviste. Quest'anno non è stato possibile far uscire i ragazzi, quindi abbiamo intervistato gli operatori degli altri progetti all'interno dell'IPM di Bologna, con la comunità, perché ci sono anche i ragazzi della comunità ministeriale, sempre del Fratello. Abbiamo intervistato la strada del Fratello, sempre perché la tendenza in questi 10 anni è questa unione fra l'IPM e la strada, insomma, è quello che cerco di fare. Certo, infatti parlavi tu stessa di aver lavorato con i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. E cosa ha rappresentato sia per te che per loro questa esperienza? Allora, per me, siccome insomma ormai sono 10 anni, diciamo il progetto principale, quello che più mi appassiona tra i vari progetti, insomma, che ho nell'anno. Io penso che i ragazzi, questo è un vecchio pensiero che si rinnova ogni anno, perché i ragazzi all'interno dell'IPM possono veramente rendere testimonianza del periodo storico, dei periodi storici in 10 anni che passiamo, insomma, perché sono ragazzi che hanno estreme difficoltà e quindi chi più di loro andrebbero ascoltati, mi chiedo, insomma. Il tema principale di questo progetto è il parlare di inquinamento in una maniera un po' particolare. Sì, quest'anno sì, abbiamo trattato questo argomento, ogni anno è diverso, quest'anno, perché comunque devi pensare, il progetto si svolge durante il periodo estivo e quest'anno è stato, insomma, abbastanza un turbine, perché fra il caldo che c'è stato, i TG che mandavano, il governo che è caduto, insomma, i ragazzi si facevano diverse domande. E devo dire che quest'anno, proprio per festeggiare il 10° anno, è l'anno in cui proprio loro hanno preso il microfono in mano e parlano. C'è un prologo anche un po' lunghino forse, però ho voluto lasciare loro lo spazio, parlano direttamente al pubblico come se fossero lì al cinema, insomma. È proprio per tutto quello che sta succedendo, anche è un inquinamento di tipo, abbiamo parlato dell'inquinamento dal punto di vista scientifico, così anche un po' tecnico, ma anche dell'inquinamento di tipo comportamentale, come tutto quello che sta succedendo in questo periodo cambia il nostro modo di agire, insomma. E quindi era quello che più ci interessava. Abbiamo interrogato anche